Venire a casa nostra in campagna elettorale con un programma elettorale. La dobbiamo imparare. Dicono che si possono fare per cambiare la città. L'incorruttibilità, le famiglie in difficoltà. Ci prendiamo la libertà, col 25% scomparirà. Ve lo ricordate qualche tempo fa? Neanche a fare una carta d'identità. Ma quando estinguerà tutte le pratiche che deve fare? Una cosa rivoluzionaria. Il Movimento 5 Stelle alle regionali è andato bene, è andato bene. Referendum comunali dei sindaci che ha fatto bancarotta in questi anni. Tutto avrà a disposizione i consiglieri regionali a dire che un vostro diritto è nel programma elettorale. In questi anni tutti sono venuti da noi per aprire quella porta e far entrare voi. E cosa facciamo? Iniziamo a realizzare quello che noi non abbiamo. Abbiamo a difendere Salvini, evidentemente Renzi, perché evidentemente temono i cittadini. Tu nel mondo reale ci devi tornare, ma non possiamo pensare. IRAP, IRPEF, IRES a livello regionale, livello regionale, IRES a livello regionale, regionale. IRAP, IRPEF, IRES a livello, IRPEF, IRES a livello regionale. IRAP, IRPEF, IRES a livello, IRPEF, IRES a livello regionale. IRAP, IRPEF, IRES a livello, IRPEF, IRES a livello regionale. Alle 10 del mattino del 17 febbraio 1977, Luciano Lama, segretario generale della CGIL, iniziava il suo comizio all'Università di Roma occupata dai collettivi studenteschi. Ad accoglierlo numerosi contestatori e parecchie scritte sui muri. A realizzare quella vena più satirica, come i Lama stanno nel Tibet, furono i cosiddetti indiani metropolitani, un nutrito gruppo di giovani che all'epoca rappresentavano indubbiamente l'anima più creativa, iconica e ironica del movimento del 77. Le prime avanguardie di indianità comparvero al Parco Lambro a Milano, nell'ultima edizione del Festival del Proletariato Giovanile. Qualche tempo dopo, partendo da Bologna, gruppuscoli di indiani nacquero nelle principali città italiane. Mentre buona parte della sinistra extraparlamentare continuava a utilizzare le solite parole d'ordine e a declinare il conflitto secondo le dinamiche dello scontro di piazza, gli indiani metropolitani criticavano apertamente i metodi e il linguaggio dell'autonomia, proponendo riforme di contestazione totalmente innovative. Erano ragazzi giovani e disincantati, stufi delle politiche fatte di militanza ossessiva e di dogmatismo insindacabile. Avevano un'anima libertaria, fricchettone e irriverente. Il loro nome finì per racchiudere diversi gruppi spontanei sotto per scandalizzare tanto la società borghese, tanto i partiti istituzionalizzati della sinistra, quanto i gruppi extraparlamentari attraverso manifestazioni colorate, slogan sfrontati, musica, scrittura e convivialità. Anche quel 17 febbraio gli indiani si mostrarono nella loro alterità. Costruirono una sorta di totem, utilizzando le scale della biblioteca e un carretto, su cui starono un fantoccio di lama circondato da palloncini con scritte come «Lama o non lama?», «Non lama nessuno». Quando il leader della CGIL iniziò il comizio, la loro contestazione si caratterizzò per il solito stile satirico. «Ti prego lama non andare via, vogliamo ancora tanta polizia!» E ancora è ora, miseria a chi lavora!» Furono gli slogan intonati verso il palco difeso dal servizio d'ordine del PC e della CGIL. Servizio d'ordine che poi gli indiani colpirono con il lancio di palloncini colorati pieni di acqua e vernice. Questo, secondo alcuni resoconti, fu l'episodio che diede il via agli scontri. I militanti di partito e il sindacato avrebbero caricato il carretto degli indiani metropolitani, alle cui spalle erano disposti gli uomini dell'autonomia, che passarono al contrattacco. Gli scontri si risolsero con la cacciata di Lama dalla facoltà. Per gli indiani metropolitani la contestazione al segretario della CGIL rappresentò una sorta di canto del cigno. Nei mesi seguenti, infatti, caratterizzati da un violento inasprimento dello scontro politico, molti sarebbero stati travolti dalla piaga delle droghe pesanti, molti altri avrebbero scelto di ritirarsi a vita privata. L'anima creativa del movimento era scomparsa per sempre. Cronache ribelli, almanacco di utopie reali, identità indelebile e rinnovata memoria, E sì, e bentornate su Focale Folveri. Sì. Eccoci. Ciao qua a tutti. Focale Folveri numero 85. 85, oh, come? Come tanti ne abbiamo fatti, è comunque 85 come l'anno in cui l'anno del grande successo della pirateria, fondamentalmente. Si sta parlando di videogiochi e appunto nell'arco del 1985 la pirateria dei software raggiunse dimensioni preoccupanti. Nel Regno Unito addirittura una proposta di legge incluse i software nella legge sul copyright, mentre in Italia la pirateria superò addirittura il volume del mercato legittimo. Buono. Buono anno l'85. Buono anno. E 85esima puntata, cosa ci aspetta? Cosa possono aspettarsi i nostri ascoltatori da questa puntata? Cosa possono aspettare? Un sacco di cose, un sacco, sì, di chiacchiere principalmente. Sì. Un sacco di chiacchiere. Poi io ho perso la scaletta, quindi la scaletta non ho più pallida idea. Ce l'ha il vostro amato regista. Comunque. Oh, grazie. Allora, avremo... si iniziava con un anniversario, se non mi sbaglio, che è passato giusto... Sì, l'altro ieri, sono i giorni ieri in cui... Ocalan fu arrestato nel 99, e quindi sono passati 20 anni dall'arresto, e quindi anche sono 20 anni che Ocalan poi è in prigione, ne parleremo con dei contributi sia audio che scritti dalla manifestazione di sabato da Roma. Ok. Poi naturalmente la nardellata non mancherà, ci sarà una rubrica fazza con gli animali. Con gli animali. Un paio di rubriche, veramente, sì, parleremo anche di film e, in programmazione. E poi, sperando di intercettarlo, parleremo anche di Mondeggi e della bellissima giornata che c'è stata. La cena. Grandissima cena, mirabolante, un botto di gente. È stato veramente un successone, un grande successo in vista dell'asta che a questo punto... È veramente imminente, però... No. Noi comunque confidiamo. Dai, è un pezzo. Vi lasciamo, ci vediamo se si riscrive la scaletta. Via. Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, e al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrai mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda e trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema, e al loro Dio goloso non credrei mai. E forse avevo 18 anni e non puzzavo più di serpente, possedevo una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al Dio della scala non credere mai. Tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte, ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Vedero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. È un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. È un Dio, è un Dio, è un Dio, è un Dio, è un Dio senza fiato, non credere mai. Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro? Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina? Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo? Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose. Nella disperazione però puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie. Qui Sina e Omlo dal corteo in solidarietà per il Rojava, in centinaia sono scesi in piazza oggi e stanno camminando da Piazza dell'Esquilino in avanti per manifestare la loro solidarietà al popolo curdo, ai popoli della Confederazione Democratica della Siria del Nord e dell'Est, agli scioperanti della fame. Ad oggi Leyla Gruven al 101esimo giorno di sciopero della fame, è stata rilasciata qualche settimana fa dal carcere a casa sua blindata, ha impedito qualunque tipo di comunicazione dagli altri parlamentari dell'HDP per portarle solidarietà sotto casa sua. E... arriviamo appunto ai 20 anni di isolamento di Öcalan e questo corteo vuole appunto fare pressione internazionale principalmente per la libertà appunto di Öcalan e quella dei vari prigionieri politici migliaia che si sono nelle carceri turche privati dei diritti fondamentali. Quindi chiediamo a gran voce oggi in piazza una presa di posizione chiara anche dalle istituzioni italiane per quanto riguarda quello che sta succedendo, per quanto riguarda gli aiuti che continuano ad arrivare e ai patti commerciali che continuano ad essere sostenuti in favore della Turchia da parte dell'Italia. Si chiede di stare dalla parte di chi lotta, si chiede di stare dalla parte di chi cerca di autodeterminarsi e di chi cerca la libertà per il proprio popolo. Omlo e Xina. Grazie Omlo e Xina. per questo piccolo contributo dalla manifestazione di sabato 16 febbraio, quindi un paio di giorni fa. Corteo in cui sono scese in piazza a Roma circa 5.000 persone per chiedere la liberazione del leader del PKK e curdo Abdullah Öcalan. E dopo 20 anni fa, 99. Era il 99, il 16 febbraio, sembra il 15 febbraio del 99, sì, in cui fu arrestato alla a Nairobi con una, insomma, uno strano caso di intrigo internazionale in cui fondamentalmente la Turchia stava dando caccia al proprio nemico numero uno, e grazie all'intervento e all'aiuto dei servizi segreti di praticamente tutto l'Occidente, compresa Italia, in particolare l'Italia, perché esatto, se non mi sbaglio doveva arrivare in Italia, era già stato e poi era scappato, esatto, sì, poi aveva preso un volo per Nairobi e avevano fatto in modo di far trovare una calda accoglienza a Nairobi. Quindi da quel giorno, dal 16 febbraio, è rinchiuso dove esattamente? Non abbiamo letto prima, lo sapevamo, ma ve lo leggiamo. La isola di Merali in Turchia è un'isola in cui dagli anni 30 c'era un carcere del turco. Da quando è stato arrestato Öcalan, è stato spostato, appunto, il leader curdo è stato spostato in questo carcere ed è l'unico prigioniero all'interno di questo carcere e quindi anche di quest'isola. Quindi Öcalan è da solo da 20 anni su un'isola carceraria con soltanto le guardie carcerarie. Quindi quando si dice totale isolamento, isolamento. E quindi niente, c'è stata questa manifestazione per questo anniversario, per questo triste anniversario a Roma sabato. E noi adesso magari leggiamo un comunicato. Sì, che un comunicato ci è stato inviato dai nostri inviati alla manifestazione di sabato. È un intervento di Atip Dikle, non so come si legga, del Comitato del Processo di Pace di Imrali alla Marcia Nazionale per la Libertà di Öcalan. Cari amici e compagni preziosi, siamo nel 20° anniversario della cospirazione internazionale avvenuta il 15 febbraio 1999 contro il signor Öcalan. Mi congratulo e saluto tutti gli amici e i partecipanti che sono qui tra di noi e che hanno contribuito a questa resistenza. 20 anni fa il sistema capitalista della modernità catturò il leader Öcalan con una cospirazione internazionale. Questo arresto ha creato un sistema di isolamento, di tortura, Imrali. L'isolamento che a poco è divenuto sistematico in tutta la società, in Turchia e in Kurdistan, dimostrando di essere sotto una dittatura fascista. Questa dittatura ha spazzato via tutte le posizioni democratiche che il nostro popolo aveva conquistato con la lotta negli ultimi decenni. Se all'esterno appare come una lotta contro il popolo curdo, all'interno della Turchia fa massacri e semina terrorismo fascista. Sappiamo che questo disegno ha origini dall'ultima amministrazione dell'Impero Ottomano. Leader fascisti come Hitler, Mussolini e Franco si sono ispirati a loro ed hanno attuato le medesime strategie fasciste, le quali hanno ormai raggiunto il livello più crudele nella dittatura fascista in Turchia, guidato dall'AHK e dall'MHP. Dovremmo tutti sapere che questa ondata fascista può essere superata solo da una forte alleanza e da una resistenza totale, composta da tutte le forze democratiche presenti nell'area nazionale e internazionale. Leyla Güven, co-presidente di HRI del DTK, deputato di HRI dell'HDP, nonché rappresentante principale della resistenza di oggi, ha capito che il primo passo della lotta contro il fascismo consiste nell'opporre resistenza al completo isolamento di Öcalan. Questa è una decisione storica. La compagna Leyla è un esempio concreto di come una donna curda si è diventata simbolo di una coscienza e di una volontà, perché sapeva benissimo che l'isolamento del leader di un popolo significa anche l'isolamento dell'intero popolo. Oggi lei e altri più di 340 compagni continuano in modo risoluto con lo sciopero della fame. Leyla orgogliosamente sventola la bandiera di 101 giorni di sciopero della fame. Vi salutiamo tutti con rispetto e inviamo migliaia di saluti al signor Öcalan, che si trova in isolamento assoluto a Imrali. È senza dubbio un diritto naturale per ogni popolo scegliere liberamente il proprio futuro e di vivere e praticare liberamente la propria cultura, le cui radici risalgono a centinaia di anni fa. Questo diritto è un diritto del popolo curdo come di ogni altro popolo. Tuttavia, il popolo curdo ha perso i suoi diritti naturali oramai da quasi un secolo. Ad esempio, oggi in Turchia, la presenza di questi antichi popoli è ufficialmente negata. Si viene assimilati e turchizzati con metodi repressivi. Le nostre persone non possono utilizzare liberamente la loro lingua né istruire i loro figli in madrelingua. Tutti i valori storici e culturali sono sotto la minaccia di distruzione da parte della Repubblica Turca. Tutto ciò rientra nell'alveolo dei crimini contro l'umanità. Il Kurdistan, il paese dei popoli oppressi, fu diviso in quattro parti dopo la Prima Guerra Mondiale, distrutto da Iran, Iraq, Siria e Turchia in quelli che sarebbero dovuti essere i suoi confini ufficiali. Il Kurdistan ha dovuto affrontare la persecuzione illegale delle politiche dello Stato coloniale nel corso di tutto il secolo. Tutte le nostre ricchezze naturali furono depredate, centinaia di migliaia di persone sono state uccise. La nostra gente non ha mai accettato questo destino di persecuzioni ed ha sempre resistito, perché sapeva che questa è una lotta dell'umanità contro ogni tipo di genocidio. Questa è la fonte della sua incivibilità. Per noi la lotta epica portata avanti dai curdi e dai suoi popoli alleati contro Daesh in Siria è una lotta sia per l'umanità che per la libertà. Il PKK ed il suo leader Abdullah Öcalan sono le forze politiche e ideologiche di questa lotta. Öcalan è il Mandela dei curdi. Lui è l'architetto della pace in Kurdistan, in Turchia e in Medio Oriente. Il PKK è nato come un movimento dei lavoratori, sia rurali che delle città. Infine vorrei sottolineare che dopo due grandi guerre mondiali, i popoli europei hanno costruito dei sistemi che si basano su valori democratici, costituzionalizzando principi quali la democrazia, il federalismo, lo Stato di diritto e la libertà, facendo un passo storico utile a tutta l'umanità. Sfortunatamente oggi la democrazia europea è minacciata a causa di germogli fascisti, razzisti e di tendenze autoritarie che stanno nascendo nei vari paesi. Ora è il momento per tutti i democratici europei e socialisti di creare una forte unità e solidarietà tra le forze democratiche guidate dai curdi in Medio Oriente. Facciamo questo sincero invito a tutti gli amici europei. Senza dubbio Leyla Güven e i suoi amici riusciranno a rompere questo totale isolamento contro il leader Öcalan. Vi saluto tutti ancora una volta con questi sentimenti e questi pensieri. Questo è il comunicato. Ok. Avevamo anche altri comunicati. Abbiamo anche un altro, sì, un altro, ma lo vogliamo leggere? Non no, so, forse, è molto lungo. Forse è lungo già insomma. Questo, che era più breve, era abbastanza lungo. Questo, riassumendo, l'altro comunicato è di Davide Grasso, uno che è stato un ex combattente, che è stato in Siria e che è tornato e che ha scritto già due libri. Raccontando la propria esperienza, e questo era un altro comunicato che è stato letto in un intervento sabato, e l'intervento verte principalmente sulle misure cautelari che sono state inflitte a dei compagni che sono accusati di essere appunto socialmente pericolosi, e quindi è stata richiesta dal tribunale, da un tribunale di Torino, la sorveglianza speciale, che prevede il divieto di uscire dal comune di residenza, l'obbligo di pernottare a casa, di presentarsi all'unità giudiziaria, il divieto di riunirsi con più di due persone, che è forse quello che colpisce, sono sei, che colpisce di più, compagni e compagne. Esatto. Il divieto di esprimere pubblicamente le opinioni politiche e la revoca della patente e del passaporto, insomma. Di fronte all'accusa rispetto a questi compagni, diciamo che in questo comunicato viene rivendicato fortemente l'impegno che questi hanno riversato in delle zone di guerra in cui veniva sperimentato quello che stava leggendo anche te, ossia un tentativo di una democrazia federale che portasse alla pace, soprattutto i tentativi di Öcalan e di chi poi l'ha succeduto nella lotta politica sono sempre stati incentrati sulla risoluzione del conflitto e non sul conflitto in sé. Quindi anche tutte le lettere scritte da Öcalan al carcere sono incentrate sul tentativo di risolvere il conflitto con la Turchia. Turchia che non sembra molto intenzionata a risolvere questo conflitto. Ecco. Sì, tanto che appunto è stata arrestata anche, per esempio, pochi anni fa, la figlia di Öcalan, che era stata eletta al Parlamento turco, era stata arrestata per aver fatto un discorso a un funerale, è stata arrestata per inneggiamento al terrorismo. e alla lotta armata. Quindi qualsiasi tentativo da parte dei curdi di portare in Turchia questo dibattito è fermato con l'autorità. Violenza. Sì. Tra l'altro non solo in Turchia, perché le misure repressive arrivano fino qua. Certo. Abbiamo sentito certo. I microfoni spesso compagni e compagne con denunce a carico per semplicemente per aver espresso un dissenso nei confronti memorabile, forse quando abbiamo intervistato i compagni perugini che esibirono uno striscione contro la Turchia con su scritto Erdogan assassino a una partita di Champions League della pallavolo, giocavano Perugia contro una squadra di Ankara e loro nell'arco di 2 secondi sono trovati circondati dalla Digos, gli hanno strappato e poi si sono beccati anche delle denunce. Che denunce. Cioè, quindi, certo. Dire, cioè. Ma i legami, questo principalmente è dovuto ai legami sia politici che economici che lo certo. Stato italiano ha con la Turchia, aveva con la Turchia nel 99, certo. Tanto da espellere... Non ci scordiamo che il Papa ha ricevuto l'Erdogan. Cioè, pochi, forse certo. un annetto e mezzo fa, un anno fa, sì, anche i nostri ex Presidente del Consiglio, certo. Renzi, e continuano i rapporti con la Turchia. Appunto dal 99 a oggi passati 20 anni, esatto. E sembra che non, sotto questo punto di vista non sia cambiato niente, anzi con Erdogan tutto ciò si è ovviamente acuito, ecco. C'è una tornata elettorale fra l'altro in Turchia a breve, se non mi sbaglio, fra l'altro la situazione insomma sembra che non sia così rosea per Erdogan, ha perso consensi, c'è un'opposizione più unita e quindi vediamo un po' cosa succederà però. Vediamo cosa succede. Comunque poi questo comunicato andava avanti, oltre a parlare di questo voleva ricordare anche i compagni che sono ancora in Siria e che stanno combattendo e che hanno praticamente sconfitto l'ISIS in tutto questo, certo, tutto questo. E sono mettendo a rischio la propria vita e la propria comunità, anche dei propri familiari, tutti i giorni per un'idea e per un popolo fondamentalmente. Quindi anche da parte nostra direi che possiamo mandare la solidarietà e l'affetto. Decisamente. Dunque, beh, noi non abbiamo altri contributi audio rispetto a tutto ciò. No, giusto? L'altro comunicato che abbiamo riassunto, diciamo. E quindi io staccherei, visto che abbiamo chiacchierato un bel po'. Canzoncella? Dai. Pezzaccio, scusate. Vai. Scusa tu, non volevo. Scusa tu. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Been waiting for is here. I have something to tell you. The lock. Now listen to me, all of you. Hey. anche le foche bevono Radio Wombat. Dopotutto, domani... Una bella bestia. Ciao a tutti amici di Fuoco alle Polveri, qui Joao e una nuova puntata di Animali dal Mondo. Oggi parliamo del mondo misterioso, sicuramente anche abbastanza inquietante, delle anguille e delle murene e di tutte le loro derivazioni. Interessante. Partiamo dalle anguille. Le anguille sono un pesce della famiglia delle anguille, per l'appunto. Facile. E quindi l'ordine è quello delle anguilleformi, il sottordine delle anguillodee, la famiglia delle anguillide e il genere poi la specie sono le anguille. Sono dei pesci diffusi in acque sia dolci che salmastre che marine, principalmente dall'Atlantico e dal Mediterraneo. E è particolare la storia di come è stato scoperto la loro biologia, diciamo. È un pesce che di recente è stato, i biologi e gli etologi hanno capito un po' come funziona. Infatti le anguille d'acqua dolce sono abbastanza enigmatiche. Aristotele addirittura pensava che discendessero dai lombrichi, che secondo lui emergevano direttamente dal fango, quindi nascevano direttamente dal fango. Il biologo italiano Carlo Mondini nel 77 dimostrò che invece le anguille sono pesci, però non è che capì bene la loro origine o il loro ciclo vitale. Un secolo più tardi un studente di medicina, che era Freud, Sigmund Freud, ne dissezionò centinaia di esemplari alla ricerca di organi sessuali maschili, ma alla fine non riesce a capire nemmeno lui come si potessero riprodurre questi animali. E nel 1896 invece lo zoologo italiano Giovanni Battista Grassi vive un leptocefalo, cioè una piccolissima creatura traslucida come una foglia, grande quanto una foglia, che per molto tempo era stata pensata come una specie distinta, una specie a parte, trasformarsi in un'anguilla trasparente, quindi in una forma giovane, una sorta di serpentello trasparente, e riuscì a capire che le due creature erano praticamente la stessa cosa, erano due stadi due stadi di età diversi, insomma, di crescita diverse. E l'anno seguente Grassi individuò le gonadi del maschio, quindi riuscì a capire in che modo poi il maschio potesse iniziarono a capire quali erano poi gli organi sessuali di questo animale. Ah, tu impappinare, sì. Cioè le gonadi del maschio praticamente sono all'interno dell'animale c'è una fettuccina a spire praticamente che è lì, che insomma, non erano stati individuati come testicoli, erano già stati individuati questa particolarità ma non come testicoli. Alla fine nel 1922 lo scienziato Johannes Smith, danese, scoprì che i leptocefali dell'anguilla europea nascevano in un luogo lontano, di cui a Fuoco alle Polveri abbiamo già parlato. Tuco è un grande esperto della faccenda, quindi se volete chiedergli qualcosa fatelo pure, tanto ce l'avete lì. Non è vero. E nascevano infatti questi leptocefali, quindi questi leptocefali trasparenti, nel Mar dei Sargassi, a più di 7000 km di distanza da dove poi questo Johannes Smith aveva trovato l'anguilla. Infatti, come fanno a riprodursi le anguille? Le anguille adulte prendono dal Mar Mediterraneo, nuotano quindi dall'Europa fino al Mar dei Sargassi, che appunto Tupo vi spiegherà dov'è. Non capisce nulla. E dalle uova fecondate emergono i leptocefali, che erano sempre bestioline trasparenti, i quali poi ripercorrono il lungo viaggio verso l'Europa seguendo le correnti, quindi ritornano verso l'Europa seguendo semplicemente le correnti. Quando le piccole creature si avvicinano alle coste e ai fiumi, i loro genitori avevano lasciato un anno prima, una combinazione tra agenti chimici del mare e la temperatura dell'acqua le stimola a trasformarsi in anguille trasparenti, quindi lo stadio dopo sono delle anguille trasparenti. Entrando nell'acqua dolce si trasformano in ceche, si chiamano così, è una versione in miniatura dell'anguilla adulta, praticamente sono delle anguille vere, come immaginava l'anguilla, però piccolina. a questo punto cambiano colore e nell'arco di 5 anni diventano bianche e argente e sessualmente mature e diventano le anguille adulte che si trovano nei nostri fiumi, nei nostri mari e nei nostri laghi anche. E queste sono le anguille che poi ripartiranno per il Mar dei Sargassi a deporre le uova. Quindi con questo viaggio lunghissimo per fare tutto, per portare avanti la propria specie. E ci sono tantissime specie di anguille, tantissimi tipi, ecco. Hanno dei nomi molto particolari, per esempio le anguille giardino esistono, che sono delle anguille praticamente spuntano tutte dalle, come se fossero delle alghe, però sono anguille e si ritraggono tutte insieme se si sentono spaventate. Ci sono dei video in mare dove si vede questa cosa abbastanza particolare. Ci sono le anguille con il becco d'anatra, l'anguilla ovocettina, l'anguilla abissale, l'anguilla tagliagole degli abissi, che è appunto un'anguilla che veniva chiamata così, l'anguilla tagliagole degli abissi, da in tempi anche non molto lontani. Sono l'anguilla spaghetto, poi c'è il grongo, che è un'altra bestia di cui parleremo tra poco. Insomma, ci sono tantissime specie di anguille. Le anguille poi in generale sono degli animali abbastanza tendenzialmente miti, si nutre di animali, cioè è carnivora l'anguilla, sia vivi che morti, prediligono in realtà quelli morti, è abbastanza semplice, canciano la notte o quando l'acqua del fiume a questo punto è molto torbida, soprattutto in condizioni di piena, e si avvalgono principalmente dell'olfatto. Inaspettatamente l'anguilla è una specie di animale a forte rischio di estinzione, non tanto per l'inquinamento. Lo cacciano? Ti piace l'inquinamento? Tendenzialmente l'anguilla nell'inquinamento non ti dico che ci sguazzano, ma quasi, cioè non gli scoccia più di tanto. Ma per altre cause, cioè praticamente l'anguilla non è allevabile in cattività, se non catturando i giovani al ritorno alla migrazione, perché questa faccenda della riproduzione funziona così, cioè non è che puoi metterla in una vasca e vedere come funziona, no, proprio no. Quindi non è facilissimo allevarle e quindi poter ripopolare quando nei momenti in cui la popolazione si abbassa. Comunque l'anguilla è molto simile ad altri animali che adesso ci prestiamo a raccontare, sempre dello stesso ordine delle anguilleformi. Quindi troviamo le murene che sono un po' l'ancestrale delle nostre paure, quindi questo serpente che sta sott'acqua nelle cavità dove vai a vederti i pesciolini quando vai al mare. Con questi denti spaventosi, questa faccia da serpente paleolitico ancestrale, e sono delle bestie che sono abbastanza incredibili. Le murene, come tutti gli anguilloformi, hanno un corpo serpentiforme, quindi somiglia a un serpente, con la pinna dorsale, caudale e renale unite in una pinna continua, quindi ha studiato, non si vede una modificazione nel loro corpo. È abbastanza massiccia sia per lunghezza che per larghezza, è ovale e la sezione del corpo è ovale, non è rotonda, non è tonda come invece vede l'anguilla, in cui si differenziano. Gli occhi sono molto piccoli e ha questi denti molto lunghi. Dei denti è abbastanza particolare, perché praticamente la murena è una, penso forse l'unico animale del mondo che ha che può cacciare a bocca aperta praticamente. Se vedete i serpenti e altri mostri del genere, se stanno a bocca chiusa, quando arrivano vicino alla preda aprono la bocca, tamagnano e ritornano giù. Ok. Invece la murena caccia direttamente a bocca aperta, quindi se voi vedete una murena le furba a bocca in mare, aperta, che è incazzata con voi o con un pesce o con un granchietto, ha la bocca aperta. Perché? Perché non gli serve quella prima fila di denti per acchiapparvi, perché o soprattutto per tritarvi, perché ha una seconda fila di denti la murena dentro, nella faringe, nella gola praticamente, cioè un po' sotto dopo la bocca, c'è un'altra mandibola. C'è un altro fila di denti, come se avesse due bocche. È alien, è esattamente questa, alien. particolarità le rende dei predatori incredibili, che infatti praticamente la Muren non cambia il suo aspetto da praticamente mezzo miliardo di anni, e infatti sta bene, nel senso di che funziona, c'ha bisogno di evolversi più di tanto, perché funziona già di suo. E ho già detto io, questo ci fa capire come questa bestia qua possa appunto poi portarci a noi in sì, incredibile, in uno stato di paura e di inquietudine. Infatti diciamo che nell'immaginario popolare le murene sono un animale abbastanza spaventoso. Altri animali di questa famiglia che ci fanno un po' paura, cioè, per esempio c'è il grongo che è poi un pesce che si trova qui anche nel mar Tirreno proprio, infatti viene usato anche per le zuppe toscane di pesce più famose. Ha delle abitudini simili alla murena, quindi quello di cacciare negli anfratti delle rocce soprattutto durante la notte. Anche questo è carnivoro. Murene e grongo e tutte le loro sono ghiotte di polpi. I polpi saranno i protagonisti di una delle puntate di Animali dal Mondo. Sì, polpo. Questo è un po' quello che volevo dirvi. Volevo arrivare in fondo a questo discorso sul mostro, cioè è un discorso diciamo che prende questo animale un po' come archetipo del mostro che dalle profondità marine ci terrorizza. Quello che a me fa un po' più paura di tutti è la lampreda. La lampreda è veramente una bestia strana che in realtà non c'entra poco con questi animali di cui stiamo parlando, perché non è della stessa famiglia. Ma con i suoi denti particolari, la sua forma molto particolare, diciamo che assomiglia in modo un po' inquietante all'anguilla e anche a qualche mostro che possiamo vedere nei film di fantascienza più inquietanti. Detto questo, ragazzi, vi saluto, che so che siete di corsa, vi voglio tanto bene. Bravo, e sì, nelle prossime puntate parleremo di altri animali abbastanza incredibili. Ma chi te l'ha chiesto? No, scherzo. Wombat Wombat. Evviva. Continua col nulla. Continua col nulla, probabilmente. Vabbè, giusto, per far sentire un po' di canzone. Cos'è? È una base frizzante. Vabbè, allora, era una rubrica evidentemente registrata. Tra l'altro approfittiamo di questo momento strano per scusarci magari della scorsa settimana in cui non siamo proprio apparsi. No, non siamo andati né in registrazione, quindi non in podcast e non in diretta. Niente. Per problemi tecnici acuti. Sì, ma un grande attacco di problemi tecnici. Noi c'eravamo, quindi è stata appunto una disgrazia. Sì, ci scusiamo magari anche con gli invitati. Avevamo due interviste, una qui di persona, una al telefono, fra l'altro anche molto importanti, visto che gravitavano intorno al Capponi, all'occupazione non avvenuta del Capponi, attaccata insomma dalla Digos e tutto il resto. Di ormai appunto di una decina di giorni fa, sì, sto parlando. Scusateci. E poi l'altro intervento era sull'aeroporto. Cioè sul polo scientifico di Sesto e su quanto la costruzione del nuovo aeroporto inficia e blocca completamente i lavori di uno dei centri di ricerca scientifici più importanti, fra l'altro, della zona, sì. E avevamo intervistato dei ragazzi del collettivo di scienze e eravamo freschi della notizia della conferenza dei servizi di Roma che aveva approvato l'allargamento appunto dell'aeroporto e magari riprenderemo, cioè non è che magari, certo, sicuramente riprenderemo l'argomento. E poi su altre trasmissioni Wombat ne è stato anche parlato molto, giustamente. Noi abbiamo scazzato la nostra piccola intervistina, la nostra giornatina, ce la siamo, sì, l'abbiamo lanciata nel vento e basta. Uh-huh. E non tocco più il microfono, scusa. Non toccare niente. Okay. Ma abbiamo una sorpresa. Abbiamo una sorpresa. Attenzione. Abbiamo un grande ritorno. Oh, venuto sì, da un grande viaggio. Incredibile. Incredibile, ma è proprio vero. È andato in eremitaggio? No, dove è andato? Non lo so. A cercare me stesso. L'hai trovato? Sì, ma l'ho lasciato là. Ah, hai fatto bene. Anche perché sennò poi dovevi pagare gli alimenti. Era un accollo. Era pesante, vero? Un po'. Un po' sì. Sei abbastanza abbronzato. Davvero? Soprattutto i piedi. Più rilassato. Sempre in ciabatte. Più rilassato anche. Molto rilassato. Vedo con le mani. Sì, le questo anche perché mi sono alzato un paio d'ore fa, visto che il volo, il ritorno, la notte, cose, fusi orari. Sì. Bello, sei bellissimo, ma eri bellissimo anche voi, prima anche di, voi, di partire. Anche Radio Wombat. Evviva. Viva Radio Wombat. Ci siamo mancati tutti. Evviva. E tutte. E andremo un pezzaccio. Andiamo a un pezzaccio. No, vediamo cosa succede dopo, perché c'è sempre la mancanza della scaletta. Oh yeah. Improvvisazione qui su Radio Wombat. E non vedo l'ora, e non vedo l'ora di abbracciarti ancora, di abbracciarti ancora, con la mia mano sola, con la mia mano sola posso toccarti, posso ancora, toccarti ancora, so che puoi capirmi, lo so che puoi capirmi anche senza parole, anche senza parole, tra noi non è servita, tra noi non è servita e mai ci servirà, e mai ci servirà, tra un po' sarà il momento, tra un po' sarà il momento di tagliarmi ancora, di tagliarmi ancora, che dolce sensazione. Posso baciarti ancora, posso baciarti ancora, non proprio come allora, non proprio come allora, senza le labbra è strano, senza le labbra è strano, ma cosa non lo è, ma cosa non lo è, e so che puoi capire, e so che puoi capire tutte le mie ragioni, tutte le mie ragioni di questa fissazione, di questa fissazione che è sempre qui con me, che è sempre qui con me. Stasera un altro passo, stasera un altro passo, il lobo di un orecchio, il lobo di un orecchio, il lobo di un orecchio, il lobo per te. E poi me ne andrò, e poi me ne andrò, e poi me ne andrò, e poi me ne andrò. Dov'è che vai questa domenica qua? Vieni a protestare in bici insieme a noi. Ma ven via, non c'hai di meglio da fare. Domenica 24 febbraio, pranzo a sacco presso la polveriera Spazio Comune per partire alle ore 14.30 per una biciclettata in difesa degli spazi autogestiti. Fine qui. Vabbè, un po' strano questo. C'era un sottofondo. Sì, continuava sottofondo e c'era in sottofondo, ma poi si blocca. Ha già stata volta succede. E vuol dire che abbiamo il file rotto, probabilmente. Sì. Oppure Radio Wombat per scusarsi no, potrebbe essere. Vabbè, ma che gliene frega ai nostri ascoltatori? Niente, magari possiamo giustificarci noi di fronte alle nostre responsabilità. Okay. Beh, lo spot era lo spot per invitarvi tutti e tutte alla biciclettata in difesa degli spazi autogestiti che ci sarà domenica questa, 24. Sì, domenica 24. Il ritrovo è alle 14.30 negli spazi della polveriera in Santa Pollonia. Pranzo al sacco, si mangia tutti insieme e poi via, biciclettata a giro per il centro. È una iniziativa nata da, fra l'altro ne possiamo parlare, da un'assemblea comune che è riuscita a mettere in contatto tutti gli spazi autogestiti e anche altri, insomma, in forma più, diciamo, legale, consona, diciamo così. Detto male, però va bene. No, va bene. Che un po' da un mese ormai va avanti e cerca di portare avanti certe dinamiche, certi discorsi, una certa unità di intenti in difesa appunto degli spazi autogestiti e degli spazi, degli ultimi spazi, verrebbe da dire, ci sono a Firenze, di aggregazione libera e senza dover sborsare quei 5, 10, 20 euro per stare in un posto dove poter stare a chiacchierare, bere, leggersi un libro, vedere un film e cose del genere. Esatto, e in tempi ormai che sembrano sempre peggiorare, non ultimo abbiamo visto la settimana scorsa lo sgombero dell'asilo occupato a Torino e tutto ciò anche che è successo dopo. Sì. E in tutta Italia vediamo che gli sgomberi vengono portati avanti da tutte le forze politiche che governano le varie città, quindi dal PD alla Lega al Movimento 5 Stelle tutti portano avanti questo tipo di repressione, e a Firenze ne abbiamo già parlato, tutti gli spazi autogestiti sono sotto attacco. Sì. E stanno cercando di dare una risposta unitaria, principalmente legando la protesta alla socialità, alla solidarietà e a dei momenti di incontro insieme, come questa biciclettata, che è un momento per stare insieme e portare i propri contenuti a giro per la città in un modo un po' così. Infatti, tutta questa cosa qua e molte altre sono state organizzate appunto tutte insieme con appunto il consueto metodo orizzontale, discutendo a lungo su tutte le questioni. Assemblea che è aperta a tutti e tutte e si ritrova il giovedì, quindi se volete venire, se volete passare anche per capire un po' cosa sta succedendo, prenderci parte, tutto il resto, giovedì sempre negli spazi della polveriera, spazio comune, alle 18, sì, dalle 18, dalle 18 in poi, finché ci se n'ha, esatto, si chiacchiera e ci si confronta un po'. A proposito di questo, venerdì c'è stata una... Ora, volevamo chiedere un paio di cose a un compagno direttamente interessato, cioè direttamente tra gli organizzatori, di una cena, una bellissima cena a Grassina per Mondeggi. Sì, in supporto a Mondeggi. Supporto a Mondeggi, cui hanno partecipato circa 800 persone, che è una fiammata. Mm-hmm. Contestualmente per portare solidarietà e aiuto alla comunità di Mondeggi, che appunto ne abbiamo già parlato, il primo marzo subirà quest'asta sì, di vendita da parte della città metropolitana, però parallelamente si vuole comprare un trattore, quindi sì, c'è una raccolta fondi per comprare un meraviglioso trattore fiammante, costosissimo, bellissimo. E quindi era stata organizzata questa cena di autofinanziamento, che non era semplicemente per il trattore, ma per portare la solidarietà appunto di centinaia di persone a una realtà che è unica, cioè è tra le poche in Italia che fa quello che fa e che insomma, sì, è anch'essa sotto attacco, e sotto attacco furioso, sì, diciamo, sì, è un po' nell'occhio, al centro, sì, dell'occhio ce l'ho. E una, fra l'altro, una cena super super cena con prodotti appunto di Mondeggi e di Genuino Clandestino e un sacco di gente, sulle più di 700 persone, sì, sì, hanno dovuto aggiungere tavoli fuori nei corridoi, Boggio, perché c'era un sacco di gente che voleva stare lì per un motivo preciso, cioè per difendere, esatto, Mondeggi. Esatto. Viva Mondeggi. Viva Mondeggi. In poi, volevo dire anche un'altra cosa, sempre sulla questione di Torino, sì. Anche noi volevamo un po' parlare delle cose, poi ci siamo detti, ma che cazzo che è? No. Cioè, abbiamo trovato su Radio Blackout, cioè Radio Blackout ha seguito dallo sgombero in poi nei giorni successivi, in modo non capillare, eccellente di più, sì. In modo abbastanza incredibile, tutto quello che è successo dallo sgombero alla manifestazione successiva, alle riunioni successive per organizzare i nuovi cortei e tutto ciò che sta succedendo in questi giorni a Torino, che non è soltanto lo sgombero di uno spazio che comunque aveva ormai 20 anni, ma è proprio la reazione della città a un processo che può essere simile a quello che stiamo vivendo qua a Firenze, che va dalla gentrificazione alla guerra ai poveri, e quindi rimandiamo al sito di Blackout, di Radio Blackout, per tutte le informazioni e per una diretta praticamente quotidiana di quello che sta succedendo. Mm-hmm. Sì, andate a vedervi, andate a spulciarvi il sito e ascoltatevi, appunto, sì, per avere tutte un excursus su, sì, tutto quello che è successo, certo, minuto, certo, per minuto, tutto. Bravissimi, dovremmo imparare un po', forse. Da... Infatti, magari nelle prossime settimane potremmo chiamarli e farci, sì, raccontare sia quello che è successo, sia come fanno a essere così cazzuti. Così bravi. Esatto. O... pezzaccio? Forse una canzone, tanto, sì, siamo qui e, sì, possiamo perdere tempo. Dai, un altro pezzaccio. Ti do la scelta, se vuoi. Vai. Puoi scegliere fra The Knife, Like a Pen, sì, come una penna, oppure Cypress Hill, classicone, Insane in the Brain. Puoi scegliere. Allora, non conoscendolo... Esatto, è quella. Allora, la seconda. La seconda? Sì. Ma io sono una persona brutta? No, vabbè. Vai, se sei una persona brutta, metti la prima. Tieni il palle, fare quello che vuoi. Metto quella che non conoscete. Wombat. Thank you. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tanti auguri, Radio Wombat! Beh, sì. Siamo qua. Ah, ciao. Siamo qua alla Nardellata. La Nardellata, ma non c'era una sigla della Nardellata anche? Oh, poi la mettiamo in chiusura. Non aveva? Nardella? Sì, c'era, ma non l'ho messo. Ho messo questo simpatico spot natalizio che Nardella ci ha fatto apposta per Radio Wombat. Radio Wombat. Visto che parliamo, insomma, forse sei l'emittente che parla più di sempre Nardella. Di Nardella. Sì. Nardella? Nardella? No, e sicuramente siamo l'emittente che parla più di Nardella. Non ne parla proprio, proprio bene, diciamo. Però ci dà sicuramente un sacco di materiale. Solo oggi abbiamo dovuto scartare centinaia e centinaia di ore di file e audio per selezionare questi auguri di Natale che comunque ci ha mandato personalmente. Quindi lo ringraziamo comunque per la considerazione. Certo. Un po' dopo, perché alla fine Natale è passato da un paio di mesi. Ma l'ha fatto apposta per farci sembrare un po' in ritardo. Lo so, però in realtà non lo siamo. E allora, di Nardella. Abbiamo visto tutti, ormai settimana scorsa abbiamo bucato, quindi forse ne avevate parlato. Settimana scorsa c'è stata l'inaugurazione della nuova linea della tramvia. Sì, ne abbiamo parlato perché... Però al vento. Perché anche in unione appunto al presidio che c'era quello stesso giorno, certo. Che è stato tenuto lontanissimo ovviamente, visto che c'era... All'aeroporto anche... questo, vero? Sì, sì, lo so, no, sì per la domanda retorica, sì, all'aeroporto. Certo. E, sì, non mi ricordo a questo punto che giorno era stata l'inaugurazione. Era stato proprio scorso. Lunedì mattina. No, lunedì mattina scorso. Ah, sì, è vero, lunedì mattina. Quindi una settimana fa, una bellissima inaugurazione a cui appunto la stampa era abbastanza lontana, tutti gli altri erano infinitamente lontani da tutto ciò che avveniva intorno all'aeroporto di Firenze, in cui il Presidente della Repubblica Mattarella, Nardella, per l'appunto, vedi che c'è chi lo cerca, ma noi l'abbiamo trovato. Comunque Nardella e il ministro, il super ministro Toninelli e tutta quella gang del Bosco, tra cui un simpaticissimo commissario europeo Cretu, la signora Cretu. Insomma, questa bella combricola ha inaugurato la tranvia. È stato poi fatto un bellissimo giro in tranvia che partiva appunto all'aeroporto e arrivava alla stazione, che è il percorso della tranvia, e giustamente, perché bisogna sempre ricordarci, siamo nel 2019, il cardinal o arcivescovo Bettori, di Firenze, Bettori, ha benedetto la tranvia. L'ha benedetta? Sì, proprio con come si chiama? Insomma, scusami, ma se poi un putaso toccandosi fa un incidente, che succede? Cioè va in controsenso tutta la benedizione? No, parte no, sai che Dio funziona secondo le sue regole. E a volte se ne fotte, a volte sì. Però insomma, per ricordarci appunto che siamo nella modernità, i mezzi di trasporto della modernità, quali la tranvia, vengono benedetti dalla Chiesa Cattolica. Un po' come si benedice le mucche da mandare al pascolo e i maiali da svezzare. Da sgrassare, capito? Perfettamente. Sì, sì, sì. Bene, quindi dopo quella bellissima giornata c'è stata una settimana un po' di esaltazione, perché effettivamente il nostro sindaco è sulla cresta dell'onda. Sindachi. È sulla cresta dell'onda, tanto che si è fatto prendere anche dall'emozione e ha annunciato che vuole far ripartire i lavori del sottoattraversamento del tunnel TAP e della stazione Foster, dopo che in altri momenti aveva detto che non erano utilizzabili. Era andato contro la dirigenza di Ferrovie dello Stato, che gestisce il mostro che hanno creato e che hanno scavato nella nostra città. 2016-2017 diceva queste cose. Esatto, maledetto, dire... malefico Ferrovie dello Stato e tutti quelli che li accompagnano, perché questo mostro della stazione Foster, che appunto dovrebbe assomigliare molto alla stazione Tiburtina, che ho visto recentemente, che è una sorta di cattedrale nel deserto, voleva essere anche la stazione Foster. Questa stazione dell'alta velocità a un chilometro e mezzo, due chilometri dalla stazione centrale. Insomma, queste follie di queste bellissime grandi opere che ci vengono costruite nelle gengive e che poi subiamo tutti con tutti i loro sprechi. È costata, sembra la stazione Foster sia costata per ora una miliardata di euro. e ne è stato completato, quindi stazione Foster è sotto attraversamento del tunnel TAV, quindi è costato una miliardata e è stato costruito il 20% dell'opera totale. Quindi ha voglia miliardi ancora? No, ha voglia miliardi quando era stato preventivato 700 milioni di euro per intera opera, quindi buono. Siamo a questo, bene, vero, beh, si può chiudere, perfetto, su questo dato si può chiudere. Nel frattempo, che ti succede, che non ti succede? Ovviamente il computer ha deciso di spengersi, ma no. Cioè, sì, certo. Che ti succede, che non ti succede? Perché secondo me sono i servizi segreti di Nardella che ci... che mi fanno mettere la password di un computer non mio, sì, per fermarmi. No, una nuova ordinanza del comune, appunto, sempre di Nardella, una nuova bellissima ordinanza che impedisce... o impone il divieto, non so come preferisci la... impone il divieto di apertura dei mini market del centro storico di Firenze dopo le 22. Quindi non possono vendere gli alcolici dopo le 21 e devono chiudere alle 22. E ti dico, ma perché devono chiudere? L'ordinanza è sugli alcolici, sì, il senso è sugli alcolici, sì. Volevo appunto leggervi le dichiarazioni di Nardella. Nardella. Ma comunque... è difficile parlare con questo tizio che dice Nardella sotto. Poi te lo alzo. Grazie. Non funziona la password. Nardella. Vabbè, non te la ricordi? Ah, dici le dichiarazioni. Non è mia. Volevo leggere le dichiarazioni. Dichiarazioni. Comunque, no, il... l'ordinanza è particolare perché non è che chiude tutti gli esercizi commerciali del tipo di market, ok? Un market, no, dice dopo le 22 se ti vuoi comprare la pasta non te la puoi più comprare, no, perché non devi più mangiare. È tardi, non si mangia. Vai in un ristorante o vai... vai in un ristorante. No, non è proprio così, nel senso che... Nardella. I supermarket, quelli un po' più grossi, possono stare aperti. Ah, vabbè, è giusto. Cioè, quelli su BL. Su BL. Belle bestie. E quindi non... mi sembra che il limite sia 150 metri quadri. Cioè, sotto quei... sotto 150 metraggio? Metri quadri, devi chiudere. Bene. Sopra 150 metri quadri, puoi stare aperto. Ma quindi, c'è scritto espressamente... 150 metri quadri, te lo leggo. Cioè, anzi, ti leggo le dichiarazioni dell'assessore del re, ok? Del re? Si chiama Del Re, di cognome, che ti devo fare? Vuoi prima Nardella? Dai, allora, prima Nardella. Abbiamo raggiunto risultati importanti, ma non ci fermiamo. Andiamo avanti per rendere sempre più difficile per i nostri ragazzi il consumo eccessivo di alcol, imponendo la chiusura stabile dei mini market alle ore 22. In questo modo vogliamo contrastare anche situazioni negative per il decoro e la vivibilità del nostro centro storico, nelle ore notturne, che possono creare condizioni di insicurezza e influire negativamente sulla salute dei residenti. Capito? Quali residenti? Domanda principale: quali residenti ci sono nel comune di Firenze? Nel centro di Firenze, pochi. Sempre meno. E magari gli serve la pasta alle 22:10. Comunque, sì, questo ovviamente sembra un comunicato. Potrebbe essere un discorso fatto durante il proibizionismo degli anni 20. Comunque, per capire meglio questa ordinanza, leggiamo le dichiarazioni dell'assessore del re. Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti con la prima ordinanza, che è stata apprezzata dalla cittadinanza. E qui potresti mettere il rap Renzi o il rap Di Maio, che ha portato una sensibile riduzione degli accessi al pronto soccorso di Santa Maria Nuova, attenzione, per abuso di alcol. Al tempo stesso introduciamo una novità importante, esentando dall'ordinanza le attività commerciali alimentari con una superficie superiore a 150 metri quadri. Riteniamo infatti che queste attività possano rappresentare davvero un servizio rivisitato per cittadini e turisti, oltre che un presidio nelle ore serali e notturne, perché presentano un'ampia offerta merceologica, non legata principalmente all'alcol. Peraltro, sulla base dei controlli svolti dalla Polizia Municipale, abbiamo voluto verificare le infrazioni, bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Sì, che l'infrazione ha riguardato i locali di piccolissime dimensioni, tra i 20 e i 40 metri quadrati. Non si sono domandati, immagino, il perché, che uno ha un negozio di 20 metri quadrati, forse ha più bisogno di vendere una birra di un supermercato che invece... per esempio non paga gli straordinari le domeniche festive ai propri lavoratori, come fa un grande catena che è situata in più parti del centro di Firenze, che inizia con la C e finisce con NAD. E per cui ci sono decine di vertenze sindacali attive. Non ci preoccupiamo di questo, preoccupiamoci di chiudere i piccoli esercizi commerciali e farli soffocare così. Quanto a questo discorso sul vicinato e sull'importanza di avere esercizi commerciali aperti nelle ore notturne, io posso essere sinceramente anche d'accordo. Più gente c'è per la strada, più cose ci sono aperte e più la sicurezza, e questa penso che sia Garantito. un po' di sicurezza, non l'esercizio commerciale, ma la gente per le strade, mi sembra che la direzione che ha preso questa amministrazione negli ultimi 5 anni, che probabilmente porterà avanti nei prossimi 5, se sarà confermata, sia un po' diversa da quella Molto dichiarata, diversa. In linea drammaticamente. con quella vigente, fra l'altro, in quasi Esatto, tutte esatto. molte città d'Italia e d'Europa. Esatto. Viva viva, che Ok, bellezza! Nardella ci ha fatto amareggiare alla fine. Niente ci aveva fatto amareggiare, nemmeno la Murena, e invece te sì, come Ci è sempre. riuscito, bravo Come Nardella. sempre, Nardella. Vabbè, senti, possiamo chiudere questo discorso? Sì, manderei anche una Mandiamo canzoncina. forse una canzone, poi ci risentiamo tra pochi minuti e vediamo un po' da A farci. sorpresa, A surprise. vai. Hai ascoltato Contro Dario. Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? Loco. Ali. Bello sto pezzo che c'è sotto ora. Lo metterò sempre come base. Dai, sì, fine bene. Bellissimo. E allora, siamo a fine di questa pazzerella trasmissione. Sì. Ci è arrivato per le mani, per l'appunto, un volantino, un caso volantino, casualmente della rete SET. E che cacchio è? No, lo sai già che cos'è la rete SET, è la rete Sud Europa di fronte alla turistificazione. Esatto. È una rete nazionale e internazionale che parla di, cioè che affronta i temi quali la gentrificazione, l'urbanizzazione e il disagio che vivono le nostre città di fronte alla turistificazione. Abbiamo intervistato qui due puntate fa, mi pare, o tre puntate fa, la rete 7, il nodo di Firenze. Sì. Quindi se andate a cercare tre podcast sul sito troverete l'intervista. Ci è arrivato un volantino, perché? Perché 1, 2 e 3 marzo 2019 a Firenze, uh-huh, ci saranno appunto tre giorni sul tema, due punti: turismo nei territori e nelle città, beni comuni addio? Punto interrogativo. Questo è il titolo della tre giorni della rete 7. Adesso io vi leggerò il programma, perché sarà detto che avremo aggiornato sul programma e ci è arrivato il programma. Oh yeah. Allora, venerdì 1 marzo alle ore 10 ci sarà un presidio contro la vendita di mondeggi comune in via Cavour 1, ossia sotto Palazzo Medici del Carmine. 16 alle ore 16, ma c'è anche te volantino allora, sì. Corbetto. Passeggiata antituristica con Firenze No Cost. Beh, anche loro abbiamo intervistato. Partirà dalla spumeggiante sicuramente dalla stazione Santa Maria Novella fino a Sant'Ambrogio. E alle 18:30 la presentazione della rete 7 presso la facoltà di architettura. La facoltà di architettura, con a seguire un buffet a cura di Genuino Clandestino. Direi che già il venerdì varrebbe la pena di gioco. Invece sabato 2 si va tutti insieme al CSA Next Emerson in via di Bellagio 15, con pranzo a cura di Genuino Clandestino, tra parentesi, quindi buono. Dalle 10 alle 18 laboratori artistici, subvertising, che sarebbe il branding urbano della sua contronarrazione, scultura, una maschera per Firenze. Mentre sempre dalle 10 alle 18 in contemporanea workshop paralleli, tavolo 1 con tavoli, tavolo 1 l'abitare e la turistificazione è il titolo, invece il tavolo 2 la dimensione territoriale. Si chiuderà dalle 18:30 alle 20 con assemblea plenaria e a questo punto penso, ah no, il pranzo, cioè una destra, quindi sì, no, cena. E invece domenica 3 presso la polveriera Spazio Comune alle 19:30 ci sarà il carnevale non turistificato, azioni e interventi in difesa dei beni e dei luoghi comuni. Qui rimaniamo sintonizzati, perché sicuramente la prossima settimana approfondiremo. E poi alle 19 ci sarà una festa di solidarietà a supporto della rete SET fiorentina, e quindi tutti alla polveriera. Per maggiori informazioni e aggiornamenti c'è il sito su Noblogs, che è setfirenze.noblogs.org. Uh-huh. E direi che, cioè, vedi, c'è anche scritto che Rete 7 Firenze è supportato da, esatto, Alterpiana, Arche Costruendo, Assemblea Cardatori, Comunità di Resistenza Contadina Jerome Laronz, CSA Next Emerson, Lafas Polveriera Spazio Comune, Mondeggi Bene Comune, Fattoria Senza Padroni, Per Un'altra Città Firenze e Spazio Inchiostro. Tanta bella gente, tutti insieme. È sempre bello vedere quando si vengono fatte le cose tutti insieme in questo modo. Sì, è sempre molto, molto, bello. Molto bello. Su questa nota di scioglievolezza ci... Tamari. Ci salutiamo, ci sentiamo sicuramente lunedì prossimo. Sì, se non abbiamo altri problemi. Se non abbiamo altri problemi, dateci fiducia e sintonizzatevi. Provateci lo stesso. Podcastateci. Esatto. Ciao, grande Vlad. Ciao, grazie mille. Ciao anche al tuo gemello istruito che ci ha parlato, sì, che ci ha parlato degli animali. Molto simpatico, anche se non ascolta molto quello che gli viene detto. No, va un po' per la sua strada. Va un po' per la sua strada dritto, però. Vabbè, non era simpatico, va bene. No, è abbastanza. Il mio gemello, dici. Sì. No, io lo sto scherzando. Sì. Bene, arrivederci. Grazie. Ciao. Ciao. Fuoco alle polverie. Paul Berry. Radio Bomba.